solo dire poche frequenze, c'ha tutta la banda dei cose, dei due metri. Era il 701, che scambio avevamo fatto? Ogni volta cerco di ricordarmi cosa avevamo scambiato. Sì, adesso mi ricordo, perché non riuscivo, ogni volta penso, dico, ma perché abbiamo fatto scambio con qualcosa, era per quella strumentazione, era per quello, come si chiama, quell'amplificatore, quella cassa amplificata della, come si chiama, quel Marshall, poi, non Marshall, P-Way mi sembra, qui mi ha dato quell'eco analogico e un'altra cosa, ma ne ho parlato, no? E quella là bisogna farle funzionare spesso, Claudio, quel 701, io c'ho il 711, il modello successivo, però se le tiene troppo ferme, magari qualche condensatore va a leggere a perdita, poi magari c'è qualche contatto, qualche spinotto, vogliono fare aperto e controllato se c'è quelli a pettine, quegli spinotti a pettine, magari muoverli un pochettino, perché possono essere quelli i problemi. Guarda, non ti posso dire niente perché con la radio forse l'ho accesa qualche volta, non l'ho mai utilizzata, vabbè, non avevo la patente, non potevo neanche, qualche volta accesa così per ascoltare, probabilmente si possono mettere su qualche frequenza diversa, non lo so, che magari la puoi utilizzare anche, non so se si possa fare, non sono esperto, sulla banda dei, come si chiama, a fare no, 70 cm, dai 4,45. Sto dicendo, forse ho detto una fesseria, ma sono probabilmente sono in fisica, ma con la radio c'è anche l'SSB, no? Se non sbaglio, fate la predisposizione per mettere i filtri SSB o filtro più largo o più stretto, in SSB funziona con la radio. sei sicuro che c'ha la M con la radio? Io mi ricordo che c'ha FM, USB, LSB, LSB e CW dovrebbe avere. Diciamo quando con le donne abbiamo quel canale monitor 525, io quando entro l'unico ponte che utilizzo più frequentemente delle due alfa, quello di Coso, di pure reserve, intendi quello di Monte, come cacchio si chiama? Monte Rasu, quello lì. Nazionale penso sia spento, Monterraso era in riparazione, ci è andato Walter, ma c'è problemi sulle antenne, qualcosa che non quadra. Quello di Fiume Santo è una bomba, cioè arriva che è una cosa da paura, quello con mezzo watt riesce a eccitarlo, è una cosa da paura quel ponte. L'hanno migliorato perché hanno migliorato le antenne, hanno messo le cavità nuove, di cosa di Antonio Solinas, quello di cosa, radioamatore, è una bomba quel ponte, c'è una copertura da paura. Poi c'è anche il ponte della Corsica che arriva sparato qua, non so se l'hai visto, avete visto, sentito, e ogni tanto c'è qualcuno, Monterasu è così, certi giorni arriva bene, certi altri giorni, io lo eccito, però arriva anche forte da me, però molte volte è sordo, non riesce a fare niente, l'imbara non se ne capisce niente, certi giorni c'è, certi giorni non c'è, poi dice che viene attivato a 145-700, senza attuni a coso, Santo Lussugio, alla Basanta, però io non riesco a sentirlo, Walter forse riesce a prenderlo in direttiva, però è un po' sfavorevole da parte mia, quello di Alghero già ci riesce a prenderlo, e basta, ok, avanti di nuovo a te Claudio. Thank you. una bella soddisfazione. No, io lo sapevo che c'era, però era un orario di lavoro, non ho potuto fare, però c'è stato un po' di macello perché qualcuno ha disturbato, anche proprio gli amatori hanno detto nominativi, è una cosa brutta. Se sai che a quell'ora c'è questo collegamento con la scuola, un istituto scolastico, come fai a metterti in mezzo a fare chiamate e cosa? Hanno fatto una bruttissima figura, cose assolutamente. L'altro giorno mi stava raccontando un amico, lo stesso radioamatore, l'altro giorno, qualche mese fa, l'ISS, la Stazione Spaziale Internazionale, sta facendo una prova di video, diciamo trasmissione di segnali video, bassa risoluzione, e questo radioamatore ha rovinato tutto, con nome e cognome, nel senso, uno scandalo, due radioamatori italiani hanno fatto ridere il mondo. Minuti sei riuscito a sentirlo. Sì, vabbè, naturalmente non li ascoltavi, perché quelli ce l'avevano sopra la testa in quel momento lì. No, ma sono cose particolari, io non l'ho mai sentita, sinceramente ho provato qualche volta, però non è che l'ho cercata, che sono andato a cercare, sono andato sulla frequenza 145-800, mi sembra che sia, però ne hanno 9 di frequenze, cioè, hanno un apparato della Cable sulla banda VHF, niente di importante, l'ho visto pure un apparato non ultimissima generazione, un semplicissimo apparato della Cable. Thank you. tu stai facendo ascolto, non stai facendo, come si chiama, trasmissione. Naturalmente la radio è una radio dedicata come un ricettasmettitore, teoricamente, ma se non l'hai fatto da nessuno, cioè tu stai facendo ascolto e basta, non ti stai mettendo a trasmettere. Se stai utilizzando delle frequenze radioamatoriali di ascolto, in cui non stai andando ad ascoltare, a codificare una telefonata oppure ascoltare una conversazione di forza dell'ordine contro l'Estopo e compagnia cantante. Ok, te l'ho mandata te la QSL mia, Claudio. Sì, sì, confermo, te la manda anche a te, ero convinto di avertela mandata, lo sai. L'ho fatta, mi ho fatto uno scherzo, ho sentito con qualcuno che se la vuole fare Melina, poi ti dici cosa ti vuoi mettere. Io ho fatto un'idea, ho fatto la spiaggia di Calabrandichi, il mare, diciamo, in simbolo della Sardegna, la nostra risorsa è il coso, il mare. Poi ho fatto uno spaccato dell'Italia, piccolino, una catena dell'Italia, solo il perimetro, piccolina, e gli ho messo evidenziato in rosso la Sardegna, poi c'è la Sardegna più grande con le coordinate della Sardegna, Sassari evidenziato, e poi cosa ci ho messo? Il simbolo dell'Italia, della Sardegna e di Sassari, il coso, non il gagliardetto come si chiama, ma gonfalone di coso e basta. E poi gli ho scritto i dati, il nominativo, le iota, il coso del Canti, della città, della direzione dove siamo, la zona postale, eccetera. Diciamo nel complesso, dai, carina, diciamo, non è, ce ne ho visto molto più belle, però ho cercato di dare un'idea di quello, di dove mi trovo. Poi ne voglio fare un'altra, adesso magari è diversa, mettendoci qualche radio o qualcosa del genere. Sì, QRZ.com sono iscritto, non ho messo ancora nessuna immagine, sono iscritto anche a EQSL e quell'altro americano, anche se quello americano c'è qualche problema, non ho capito perché, per il momento ho fatto tutto, poi è rimasto mezzo bloccato, non ho capito cosa è successo, vabbè, dovrò mettermi in impegno e riverificare tutte le password, eccetera, eccetera. No, QRZ.com c'è il mio nominativo e basta, EQSL c'è anche la mia QSL, quella che me ne ho scaricato una da lì, perché ce ne sono quelle gratuite e quelle a pagamento, ne ho messo una così, per dire chi mi cerca mi trova con quella roba lì. Di nuovo a te, Claudio. Devi studiare, non puoi andare così allo sbaraglio, però ci sono delle, le ho passate a Luca e mi sembra forse a Natalino, non ricordo a chi, Luca sicuro, aspetta l'altro chi era, non mi ricordo a chi le ho date, forse vabbè adesso va bene, non mi ricordo i nomi, in ogni caso c'è questo qua dell'area della Liguria, veramente è una persona grandissima preparazione, molto comunicativo, nel senso spiega molto bene, perché è inutile che tu dai nozioni tipo computer non riesci a assimilare, questo è molto, ti fa dei belli esempi, se non capita te lo mando il coso, sono 27 lezioni di elettronica e 22 lezioni di elettronica e 2 o 3 lezioni di normative e cose, veramente molto molto comprensibile e facile da assimilare. Io non l'ho studiato da lì, però meglio poco prima di dare l'esame, un paio di giorni l'ho guardato così per curiosità, è fatto molto bene, perché dopodiché, come ha spiegato, ti fa le domande, cioè ci sono le domande e te le spiega, domanda e risposta, e ti fa capire più facilmente quello che ha spiegato, perché lui si affida al libro, quello che è morto tra l'altro mi sembra ad aprile, quello Nerio Neri, non so se l'hai mai conosciuto, almeno di nome, quello che ha fatto il classico libro di tutti gli amatori che hanno tirato da lì. C'è sempre da imparare, soprattutto quando ascolti quei personaggi, e quelli sono proprio personaggi nel senso che li trovi nei libri di testo, delle persone assolutamente competenti, sono degli sperimentatori, degli scienziati in campo radioantistico, ogni tanto si sente qualcosa, come l'FT8 è stato fatto da radioamatori, certi sistemi di trasmissione digitale sono stati fatti da radioamatori, questi collegamenti satellitari fatti da radioamatori, molte di queste cose poi vengono messi in commercio, in porto, prodotti eccetera eccetera, sono assolutamente persone veramente veramente competenti e preparate. Cioè, tanto è capitato anche a me di recente di ascoltare una discussione, non c'ero solo io, ho salutato e fatto i complimenti, poi ci sono tante cose che peggio della 27, disordini, bisticci, parolacce, musica, sovrapposizioni, sovramodulazioni, purtroppo di lì è ancora peggio, perché c'è molta molta più gente che rispetto a un canale della 27, per cui trovi di tutto e di più, trovi delle persone assolutamente piene di autorevolezza e di cose, di preparazione, e poi trovi delle persone che non si sa neanche come fanno a stare su quelle bande di lì, perché raccontano i propri fatti, perché lo scopo del radioamatore è fare sperimentazione, parlare di argomenti tecnici eccetera, di volte a volte si raccontano tutti i fatti personali che sinceramente infatti, e poi interessante è che colleghi con pochissima potenza, con un pezzo di filo colleghi tutto il mondo, quella è la soddisfazione più grande, ci sono i diplomi che ne ho fatto tantissimi, sono arrivato 80° su 1600 e passa, il primo della Sardegna, ho guardato la classifica, non ce n'è neanche uno vicino a me, gli altri sono tutti più bassi, per dirti è una cosa, un gioco fare i diplomi, l'ho fatto senza nessun impegno, infatti se dovesse capitare questo diploma che ho partecipato, perché ci sono, a seconda dei collegamenti che hai fatto, ti danno, chiamiamola medaglia, diploma d'oro, d'argento e di bronzo, io ho preso quello di argento, sono riuscito a fare e e ti ripeto, è durato 2 mesi questo diploma. Io, se l'avessi saputo dall'inizio, sarei arrivato tra i primi 20 sicuramente. Purtroppo non l'ho seguito più di tanto, ci andavo così di tanto la notte, e ho preso un sacco di punti. L'ultima settimana invece di lì ho cercato di fare, guardando i cluster dove ti dicono anche su che frequenza ci sono, e mi sono divertito. Mi sono arrivato non meno di una quarantina tra diplomi, QSL e cose del genere. Tenendo presente che io sono fresco di patente, soprattutto fresco di antenne. Di nuovo a te, Claudio. Sì, ce l'ho già da un po' l'effettivo, anche se devo dire, collegamenti li ho fatto ben pochi, non è una cosa che mi appassiona più di tanto, c'ho qualche problemino perché allora, ricevo tutto perfettamente a bomba arriva, no? Perché lavorano, come hai detto tu, vicino alle frequenze, all'inizio di banda, 7.074, 15.074, non 15.000, che cavolo è, lì, ma farà, però mi viene adesso, 14.074, e 20 metri, in 80 metri, eccetera, eccetera. E arrivano fortissime perché lì con pochissima potenza colleghi tutto il mondo, e non è una cosa per venire agli amatori, secondo me, perché tu non fai niente, fa tutto il computer, c'hai l'interconnessione con il TS2000, l'attacco al programma del computer dell'FT8 GTDX, mi sembra che si chiama, insomma lo ricordo, e tu metti CQ per dire quel momento lì e ti rispondono, oppure se ti vuoi, diciamo, ci sono un elenco di stazioni in quel momento che stanno parlando, tu ci clicchi sopra, in automatico vai in trasmissione e gli dà il rapporto, cioè in automatico gli dà il rapporto di ricezione e lui ti dà il suo rapporto del computer, e oppure tu devi scrivere F73 oppure ci sono 6 o 7 messaggi già preimpostati, ci clicchi sopra e fa tutto il computer, ti colleghi tutto il mondo, puoi fare collegamenti di tutto il mondo che ci impieghi anni per dire facendoli in fonia, però è anche quella una cosa nuova, divertente. Io ho fatto 59 country dal mondo, ne ho fatto qualcuno anche interessante, ho fatto San Marino, che è una cosa, considerando che siamo molto vicini, molto molto raro, perché ci sono solo 2 radioamatori a San Marino operativi su 80 patentati, però che lavorano sono 2, quello è stato molto un colpo di fortuna, l'ho fatto 2 volte, questo Nazareno si chiama di San Marino, di Acquacettosa, adesso mi ricordo come si chiama la cittadina, e poi ho fatto qualche collegamento spesso col Giappone, che dicono che non sia abbastanza frequente, però qua arriva quasi tutti i giorni, mentre Sud America quelli ne ho fatto soltanto 2, ho fatto l'Ecuador e il Brasile, vabbè, probabilmente la propagazione non è favorevole, poi tutta l'Europa ho fatto, mi mancano un paio di nazioni e basta. Di nuovo a te, Claudio. è un'innovazione, diciamo, sono sistemi nuovi, no? Ho fatto anche tramite Marco, ho aiutato lui due volte, ho collegato via satellite col satellite, non mi ricordo, AO90, non mi ricordo come sia, che quello ti passa, ti dura 10 minuti sulla testa, lo devi seguire quando è in orbita molto bassa, come si chiama, sono riuscito a farlo perché trasmetti in una frequenza e ricevi nell'altra, in V e in U lo fai in contemporanea, molto interessante. L'ho fatto, non avevo ancora i dipoli, l'ho fatto con la verticale, addirittura l'ho fatto con l'antenna piccolina, e adesso che ho la 7000 dovrei andare anche meglio. Ci sono un sacco di possibilità in banda radioamatoriale di trasmettere, e quello è interessante, soprattutto fare dei collegamenti che tu li fai solo in 27 quando c'è propagazione, mentre tutti i giorni li fai normalmente dalle bande HF. Che noi ce l'avevamo sopra la testa e lui era in Ucraina a 2400 km da noi e arrivava una bomba. Sì, sì, vabbè, non sono esperto, è stata la prima volta quello che ho fatto, però ti posso garantire, sono belle soddisfazioni, come è stata soddisfazione ascoltare quella trasmissione commemorativa di Marconi, quello me lo sono registrato e non mi hanno ancora mandato il rapporto di ascolto perché me lo dovevano mandare, ho sollecitato, adesso gli mando un'altra mail e Sciavidi, perché mi hanno detto che abbiamo, come si chiama, ricevuto la tua mail, congratulazioni dell'ascolto, eccetera, eccetera, perché non ho ascoltato molta gente il giorno, lo sai. Ha fatto un rumore pazzesco, capito? Non si è riuscito a sentire nulla, che è stata la registrazione di incidenti con Marco Scorpio, infatti l'ho saputo tramite quello che detto a lui, perché non ne sapevo nulla tra i di questa roba di Marconi, quindi sono andato a vedere ma non sono riuscito a sentire nulla, poi mi sono collegato sul card, poi ho pubblicato la registrazione che l'hai usata con 440 nella Facebook, come la sono ascoltata, roba da te è andata molto bene, ma tu sei anche le migliori delle mie, capito? Che su un'antenna della 27 è fatta, capito? Quindi era per quello, ma c'è stato il disturbo, mi è sparito, e c'è solo QRM alto, prima c'era questo disturbo, mi dava veramente problemi, adesso non me ne sta più facendo, visto che era qualche cosa dovuta a qualche capo, a qualche persona, ma sto sempre usando le espressioni che avevo prima, ecco praticamente questo disturbo non ce l'ho più, non so ancora cosa posso avermelo causato, oppure comunque quella roba lì la sera me la sono persa, stavo seguendo a voi come stavate facendo le prove, questi due mesi, le cose che ho fatto sui mesi e vi stavo ascoltando, capito? Ma quella roba lì proprio in pensato che me la sono persa, perché ci tenevo a registrarmela, capito? Cioè, erano su due frequenze, una era talmente in bassa, era quasi incomprensibile, con la Mantova l'avevo ascoltato io, è il 440, e cosa volevo dire, l'orice durava una settimana, il discorso invece è durato solo quel giorno lì e solo a quell'ora lì, io l'ho sentito perché poi ho visto poi i rapporti delle altre persone, e poca gente in Italia, c'erano 1000 watt, non è che avevano potenze da paura, 1000 watt non sono niente, considerando cosa c'è di inquinamento a quell'ora, in quel tipo di banda. Non mi ricordo se era, può essere 160 metri, me lo ricordi tu, se te lo ricordi tu a memoria, adesso mi viene. Sì, sì, questo era intorno ai 160 metri, già che era 1300 kg, era quello, 1300 metri, sì, era in quelle frequenze, 1300, 1200 in quelle frequenze lì, era vicino, quasi vicino, arrivando alla frequenza di radio, da Polizia, roba, quindi ero collegato, tutti i capaci, tutti i capaci, da quelle zone lì che le costruzioni sono state e stavo utilizzando un trasmettitore americano, credo, perché non avevo più internet, la pistola è roba buona, non più che altro, però vedi, qui non passava niente, cioè avevo questo disturbo, però tu avevi ricevuto bene anche un bel conto, un bel segnale per avere usato quella potenza, capito? E ti facevano sentire, ma insomma, il più di una tre, credo, quindi. Ma non volevo dire la precedenza, mi sembrano 1368, una cosa del genere, chilo, un mega e 350. Tieni presente, il giorno dopo ho riprovato, considerando che loro dicevano funzionava, e c'era una stazione cinese che levava 9+20 su quella frequenza, proprio esattamente sulla frequenza loro, probabilmente questa stazione non trasmetteva tutti i giorni, però il giorno li ha annientati, il giorno dopo non ho sentito niente. Era circa mezzanotte io quando ho fatto la prova, alle 12, le 11.50 della notte, l'ho ascoltato per 10-15 minuti, all'inizio c'era un po' di evanescenza, partiva da 7, 8, in certi momenti è arrivata a 9 il segnale, poi scendeva a 5, è stato stabile per pochi minuti, però era tutto abbastanza comprensibile. Aspetta rossa, quindi quelle 160 di quelle robe di Caraggio si può sentire con gli studi, era Radio Marocco, che si chiama Radio Medino, mi sa un nome così, già marocchino, che trasmette questa Casa Blanca o quelle zone lì, capito? E poi mi pare che si sentisse quando non più, era quella mia arrivata a bomba, perché sono un certo anche su accesso. Hanno capito in internet quella che una radio, una emittente privata, proprio fatta da gente che ha soldi, non c'è quanti kilowatt c'hanno di potenza. Certo, a me mi sono entrato, non ci ho pensato, sabato venerdì scorso io, Fabrizio e altri due radioamatori abbiamo fatto le prove di sintonia, Fabrizio in qualità di presidente dell'ARI di Sassari, siamo andati in prefettura, abbiamo fatto le prove di sintonia con tutta l'Italia, è stata collegata a tutta l'Italia e fanno le prove per vedere come arrivano i segnali, tra cui c'era anche una nave militare eccetera, è stata una cosa molto interessante, non ci ho pensato a dirtelo perché lì ti connettevi sulle frequenze, ti avevi dato la frequenza e sentivi tutte le stazioni, c'erano una quarantina più o meno, 30-40 stazioni di tutta Italia, c'erano dei cappimaglia, mi sembrano 3 o 4 in posizioni strategiche, tra cui una nave militare, non so esattamente, era sotto la Sicilia, esattamente adesso non mi ricordo dove era messa, e facevano le prove di sintonia, dovevi dare il segnale, i rapporti, la qualità della modulazione, diciamo, della radio, se era comprensibile, e il segnale di tutte le stazioni che venivano collegate. E poi dovevi consegnare, in questo caso l'ha fatto Fabrizio, i rapporti di tutto quello che ha ricevuto, lo devi consegnare alla prefettura. Sono normalmente 300 kHz, 500, sono molto ma molto frequenze ultra lunghe come si dice, perché sono bande, ci vogliono antenne di chilometri, perché sono di lunghezza d'onda lunghissima, per cui in certe situazioni la propagazione non c'entra niente, di lì è tutto un sistema però fanno delle lunghissime distanze perché lavorano sott'acqua, per cui devono utilizzare per forza quel tipo di cose, oppure usano i palloni sonda, come si chiama, legati al coso, un'antenna legata a un pallone, lo fanno salire su dall'acqua, fuori dall'acqua, e trasmettono su altre frequenze, perché lì è un problemino farci ascoltare. Sì, certo. Non da molto, però sono iscritto. Senti, nel sito c'è anche la fotografia, non è l'ultima foto della mia stazione, però tu entra a Rissassari e poi guardi, c'è la mia fotografia seduto in stazione, ci sono tutti gli amici, diciamo, quelli più principali, qualcuno lo conosce. No, io ci ho parlato con quello tuo vicino, Giancarlo si chiama così. Sì, credo, non voglio dire una fesseria, mi sembra che sia iscritto alla sezione di Portotorre. Come numero probabilmente, sono la più grossa della Sardegna, una delle più grosse come numero di iscritti dai Portotorre. Anche se io sono iscritto qua a Sassari, no, me l'avevano detto se volevo scrivermi lì, ma per comodità, visto che abbiamo amici qua più vicini, mi sono iscritto con loro. Infatti lui mi ha detto che lui usa il CW, è stato un caso quel giorno, ha chiamato, stavo facendo chiamata sui 40 metri mi sembra, sì, 40 metri, e mi ha risposto lui per un altro, ha detto questo nominativo, questo è se sì, io ti conosco a te, mi ha detto, ti ho già ascoltato, ha detto cavolo, ecco, l'importante è che, no, già mi ha apprezzato, mi ha detto, non, l'importante è che abbia dato una buona impressione. Capa, no, ho conosciuto uno, non facciamo nome, un grandissimo allenatore anziano, non è vecchio, anziano, è molto più grande di me, questo è un mostro in CV2 che fa 160 battute al minuto, se lo vedi cosa fa quest'uomo, a parte che ha fatto tutto il mondo, gli mancano solo due country, la Corea del Nord è un'isoletta sperduta nel Pacifico, di tutto ha fatto tutto il mondo, con le QSL me le ha fatte vedere, non è dire a parole. Infatti sono rimasto a bocca aperta, c'ha la patente dal 75, il padre era riamatore pure lui, prima di lui, per cui stiamo parlando di persone, e tu devi vedere con cosa trasmette, c'ha un coso, uno Yaesu 101, neanche digitale, di quelli degli anni 70, a scala graduata, più c'ha un TS50 e altri paio di radio, lui fa soprattutto CW, ma tu devi vedere con che antenne trasmette e che cosa, dove si fa ascoltare, la cosa più bella che lui proprio è uno da niente, sembra uno di quelli con roba di recupero, ti fa dei pezzi di antenne, degli esperimenti, me ne ha fatto fare anche uno a me, una semplice come si chiama, un'antenna V invertita per i 6 metri, mi sembra, sì, per i 6 metri l'ho fatta, ma progettini semplici con cose economiche, tu dovevi lavorare con pezzi di tubo, di cose di plastica, tutti i tasti di CV dopo la maggior parte si era costruiti lui usando dei materiali di recupero mollette, e la cosa bella è quella del radioattore, quando io vedo persone che anziché andare a comprare la roba se la costruiscono. Che con le scale graduate c'è la doppia scala graduata, io ho detto ma come fai a leggere qua, lo vedi 7200, poi la seconda scala, questi sono i decimali, ho detto, un po' complicate, tira 160 watt e tira fuori quella radio, non è uno scherzo una radio del genere, c'ha una modulazione veramente bella perché ci siamo ascoltati in 40 metri, ti posso dire, classica modulazione a valvole, veramente molto molto naturale, corposa, non è, perché a me le radio nuove, queste io ho queste 2000, non mi piace in HF, può piacere a qualcuno, però i 940 li fa 10-0, cioè proprio mi fanno tutti i complimenti per la modulazione, veramente naturale, io mi sono ascoltato, mi pare me l'hai fatto ascoltare anche tu la registrazione, è un'altra cosa, è come che tu ascolti un impianto stereo di casa e un radiometro, il rapporto è quello, come qualità, anche se c'è da dire c'hai gli equalizzatori, 10-2000 c'ha l'equalizzatore sia in trasmissione che in ricezione, puoi fare quello che vuoi, però il 940, gli attacchi, l'MC60 esce perfetto, senza niente, poi c'è una ricezione da paura, spaventosa, cioè senza niente, cioè senza usare DSP e niente, c'è una ricezione, ho fatto i confronti a parità di antenna, devi, lì la grossa difficoltà trova il TS2000 a fargli appresso, anche lui te lo tira fuori il segnale, però utilizzando il DSP, però la modulazione è più, è meno rumoroso il 940 del TS2000, il fruscio lo sento in un modo meno fastidioso, anche se la radio l'ascolti comunque, la fonia, la modulazione riesce a tirarla fuori ugualmente, però è troppo fastidioso il fruscio, nel 440 è meno rumoroso, c'è da dire il TS2000 è una radio che c'ha un po' di tutto, c'ha le bande HF, più c'ha le V e le U, e poi avete c'è anche le 50 MHz, è un tribanda, c'è anche il quadribanda, quello lì è dedicato solo alle HF, per cui è più adatto, diciamo, più specifico, però ti posso dire sono veramente soddisfatto io del 940. Separato, diciamo, volte, però non lo può più usare, quello è un caso di efficienza, però se non lo può più usare perché c'è una valvola che è partita, io la devo cambiare, capita, la devo ordinare, si tromba, perché copra un po' quella valvola, adesso non si può più andare a ripararla, e l'unico difetto che ha avuto la radio è certo che quando la lasci molto ferma, inizia, capito, inizia ad andare a ferale, inizia a tararla di nuovo, bisogna capirla, bisogna tararla, devo stare come si chiama, farle la temperatura di nuovo, inizia a far andare a ferale, ma non funziona, però da poco l'ho accelerato in casa, capito, sono questi difetti, poi con la strada graduata, il minuto tuo ho fatto fatica a sapere, perché per quel vero, perché lo sapevo essere un 40 metri, non posso, non posso, poi ho imparato a usarla alla fine, e quindi con la radio invece che mi fa dicendo quello tira mi sa 200-200 quadri, tira 20 quadri in meno del 201 di quell'altra linea tirata a parte su quella all'incasso, capito? Perché quella lo so, il produttore tra due vittore separato, quella linea mi fa forse la tutta come sta forte, infatti è l'unica linea perfettamente funzionante che abbiamo, che non usa, e perché la scelta che esiste quella della Sommer, anche perché sono i primi valvolari, i primi per radiomateriali, valvolari che hanno fatto tutti, quindi anni fa usano come linea di elogio e quelli lì, tutto perché mi sono anche documentato, invece la Lutraster non lo fa. Le Traster sono belle, belle radio, funzionano bene. Io ho il trio valvolare, non so se te l'avevo fatto vedere, nuovo, quello ho fatto un affare, no, non mi interessava, però come l'ho acceso e come l'ho sentito, no, questo me lo prendo, perché ha venduto con l'amico radioamatore, ce l'aveva detto, guarda si riesce a vendere, ma chi se lo compra, te l'ho messo in funzione, ti posso dire, c'è una ricezione veramente, veramente, perché poi c'è il preamplificatore da antenna, ma che funziona veramente bene, ti sto dicendo una cosa da paura, c'è l'accordatore dell'antenna è incorporato meccanico, che è proprio bellissimo, c'ha le bande laterali, funziona che è una meraviglia, fa da 0,55 a 30 MHz, c'ha due scale parlanti, un bello smitter, bello grosso, e doppia manopola per la sintonia fine, per il, tutto in alluminio, le manopole sono tutte in alluminio, veramente una bella radio, e sono pienamente soddisfatto, non me lo vendo quello lì, sono contento, mi sono Ruiz separato, l'ho tolto dalla stazione, non lo sto utilizzando, l'ho conservato, quello secondo com'è, se qualcuno vuole fare qualche scambio ci si può mettere d'accordo. Il pace sono indeciso se darlo via o sostenerlo, però sono soddisfatto, il pace ha una bellissima modulazione con Tanne più 3, il miglior baracchino che c'ho, l'unica cosa è la ricezione, non è un granché, è molto rumoroso, satura subito, se c'è qualche segnale vicino forte devi attenuare, se no diventa muto, però come trasmissione è una bomba. Papà, ve lo so, infatti ne sto presentando uno, comunque se lo devi dare, capito, è fatto sapere che faccio, capito, perché sono molto interessato, capito, anche per il pulista, però per il pulista adesso non ci sto pensando, capito, magari sono deciso a prenderlo in futuro, non so se qualche cambio, come mi senti di quadrare, capito, però mi interessa più il faccio, se non faccio una fase, infatti se ti decidi quello a darlo, perché quello lo considero tra poco come un dazio, non dico come un dazio che fa parchero, ma una via di mezzo, insomma, capito, perché una radio rara, anche quella è, vale anche un po' di soldi, ho visto, avrebbe un CD, capito, ai vintage, non so, anche perché già lo sai, non dico, ma ti sto dicendo, e già te lo vedi, anche tu, capito, e noi li stiamo collezionando con le radio, perché hanno valore, ci piacciono anche molto, come le uso, mi sento io, il 27, insomma, che faccio, mette la foto di soldi, console, quello che mi ha dato il parmiere, perché c'aveva un problema di alimentazione, cioè l'avevo un trasformatore, quello che non era suo, ecco, ha procurato il pezzo e glielo devo piantare con la tempo, perché quella là, torniamo come è nata in pratica, ripeto. No, ma in pace l'ho visto a $900 negli Stati Uniti, $899, c'è una valutazione da paura, e forse perché ne hanno fatto pochi, non lo so, e così Royce che c'è l'originale americano a 110 volt, c'ho il trasformatore esterno, ma funziona bene, il pace ti posso dire, c'ha l'orologio, il time, il mio è perfetto, non c'ha un difetto, anche Royce, però Royce non l'ho mai utilizzato, l'ho usato un paio di volte, ma il pace l'ho utilizzato tantissimo, è stato il mio primo baracchino dopo l'anno 41, anzi il primo è stato col portatile tipo walkie talkie dalla Intech. Dopodiché ho preso la 48 e contemporaneamente ho preso il Mavic, mi aveva fatto prendere Claudio, 110 euro, ma ti posso garantire che come trasmissione a me hanno sempre fatto complimenti con quella radio, usciva benissimo, coltarne più 3, c'era andata con tanti microfoni, anche l'MB più 4, più 5, mentre il Ruiz coltarne non l'ho provato, col microfono su originale non era un granché, volevo provarlo con altri microfoni ma non ho avuto mai il tempo, la cosa, la voglia diciamo. Ok, di nuovo a te, prendi il mic. Il mio Ruiz è senza le bande laterali, mentre il Pace ha 3 strumenti, tra cui c'ha il wattmetro e il rosmetro, e tutto l'alluminio davanti, non è plastica, tipo il Puni che c'hai tu, quello che aveva dato a Claudio, che c'è il frontale in alluminio grosso, c'ha l'orologio col timer di accensione, mentre il Ruiz mio è lo stesso ramo perché non ha l'orologio, quelli che vedi tutti, la maggior parte c'hanno l'orologio, quello che c'è il Ruiz è una versione che ne hanno fatto pochi perché originale americano e non è orologio, anche se per dire è meglio quello con l'orologio, vale, più co. Mentre il coso del Pace c'è la digitale, l'orologio a cosa Dio di luminosi rossi, è più bellino per quello, mi piace moltissimo, infatti sembra un amplificatore domestico per il coso, c'è il clarifer, c'è un paio di led, 3 led, 3 strumenti eccetera, no è un bel monopolone per il cambio canali, 40 canali non è 23 canali, perché il Pace lo facciamo anche a 23 canali. Di nuovo a te il mic. Di trovarne una, ma la ricompro perché era veramente bella, la riprendi. Roberto. Sì, sai che c'è qualcuno, Giulio, tu sei. Sì, ascolta Roberto, volevo solamente per curiosità chiedere a Claudio di Muros se mi sente con lo solo Watt. Vai Claudio, se mi hai ascoltato. Ma tu sei andato a colpo o ti stanno mettendo portante, Giulio? No, assolutamente. Mi stanno mettendo portante, allora. Cosa hai chiesto? Non ho capito, Giulio. Vabbè, non fa niente, lascia perdere. Sentiamo. La senti la portante? Giulio, l'hai sentito? Ha detto, volevi chiedere qualcosa a Claudio Di Muros, però non ho capito perché c'è qualcuno che sta mettendo portante. Ma intanto c'è anche altra gente sotto Giulio, però non riesco un po' a sentirli, perché arriva ogni tanto parli tu, Robè, tanto di coppia. Buonasera Giulio, ben sentito dopo tanto, mi fa molto piacere che sei sentito dopo tanto, sì, ecco la buonasera se mi stai copiando Giulio, riprendi. Sì, io ti sento, ma non so se tu senti a me, se c'è la portante, non lo so. C'è un disturbo tipo portante, fa tac, lo senti Roberto? Sì, però riesco a tirarlo fuori a Giulio, è un segnale più o meno come il suo, magari se parla la portante lo copre, però lo disturba molto. 9 più 10 è il coso, il segnale uguale a quello di Giulio, tu lo superi abbondantemente, sei quasi 9:20 da me, Claudio. Ma io siamo vicini, non lo so, è troppo a rilanciarlo a Giulio, riprendi Giulio. Sì, Claudio, io ti saluto, però volevo solo per curiosità sapere se tu mi ascoltavi, cosa sto usando, solamente un watt, tutto lì, niente di più. E con questo vi saluto, buonanotte, grazie per l'informazione. Ciao Roberto e ciao Claudio. Non sono riuscito a sentire quello che stava dicendo. Roberto, tu hai sentito qualcosa? E ha salutato, ha detto solo ascoltarvi e basta, l'importante è più o meno al suo livello. Comunque Giulio, se si interessa Real Madrid è passato, quindi, non so se la state guardando, 3-1 ha vinto. Sì, lo so che ha vinto, Claudio adesso già mi senti, dai, sì lo so, è sempre supplementare, ha vinto. Ciao Claudio, grazie comunque lo stesso, ciao Roberto, ciao Claudio, chiudo. Giulio, buonasera, ben sentito, piace che sento forte, adesso sì, Santiago 7 e Radio 5 è molto, molto forte, super importante, sì, ti sento molto bene Giulio, sì, riprendi. Ok, no, chiudo, dai Claudio, ti ringrazio per il segnale, ci sentiamo, ciao Claudio, ciao Roberto, buonanotte a tutti e due, riprendi Roberto. Giulio, dai, purtroppo molte volte succedono queste cose, comunque io ti tiravo abbastanza bene, non c'è problema, e adesso qualche minuto anche io stacco, dai, ok, di nuovo a te Claudio per il saluto a Giulio. Già capiteranno altre occasioni che ci sentiremo più frequente, sono più fatto sentire più spesso, stasera sono in traffico perché ho subito a Roberto, dopo tanto tempo a Pompone, mi ha fatto molto piacere che mi sentissi, quindi dai, non ti ritrattengo oltre Giulio, ti super saluto, ti auguro buon 144 e buon cuorettino, e alle prossime, ciao ciao Giulio, buonanotte. Forse, non so se dici, avanti se c'è qualcun altro che vuole entrare, avanti. Vediamo se vuole entrare, c'è questo ogni tanto questo colpo di portante. Avanti, se vuole entrare con la buonasera. Avanti. Però è un segnale variabile, lo sta alzando, abbassando la potenza perché parte da 9:10, 9:15, tu lo passi comunque, Claudio. Io ho sentito che mi stava chiamando, avanti, si chiama Claudio su 10. È un fischio questo. Ma questo sta fischiando il bullo, si sta divertendo. Ci sentiamo in seguito, Luigi, riprendi Roberto. Ma mette portante anche a me, Claudio? No, tu gli schiacci la testa anche a te quando lo schiacci, perché c'è un segnalone su quasi 9.30, è un segnale che fa da Santiago 8, era qua una stacchetta in meno di quanto stava arrivando Collo, lì poco fa, Giulio era Santiago 7, con il tizio a 8 era, capito, però Fisso era 7, però questa cosa andava e rimbalzava da 7 a 8, però Giulio lo passava, capito, era, Giulio era appena appena più forte. Non so, fischia, poi va a destra, a sinistra, la lancetta, ma non parla, è molto anche di turbato, Va bene, speriamo che finisca adesso, ci ascoltiamo, non c'è problema, io ti tiro fuori, tu mi tiri fuori, per cui lasciamo, non diamo troppa importanza alla situazione, tanto adesso stiamo per chiudere, e anzi è l'occasione per salutarti, dai, saluto, grazie del professor, sempre piacevole, belle discussioni, belle chiacchierate, Claudio, salutami tuo mamma, tua mamma e tutti in famiglia, dai, speriamo di risentirci quanto prima, anche se ultimamente sta andando su altri tipi di frequenze, comunque qua è 27 e non mi dimentico mai di sentire gli amici, saluto, mando i saluti anche da parte di Salvatore Maestrale, non so se tu te lo ricordi, tuo padre già se lo ricorda molto bene, ci siamo sentiti un paio di volte l'altro giorno, domenica, poi lunedì mi ha richiamato, la sera, eccetera eccetera, gli manca tanto qua la 27, la sua malattia è quella, mi manca tantissimo perché di lì poi non ha nient'altro da fare, Ubi non ne ha, dice mi sento un po' a disagio, ok, ti saluto di nuovo, 73, ciao ciao, alle prossime. Ciao, salutoni a te Roberto, un piacere, ti ringrazio per queste ore, mi ha fatto veramente piacere, sono da molto che non facevo una modulata così lunga, ma mi ha fatto veramente piacere questo video a te, a Antonio, a Giulio, da dopo tanto tempo, anche se c'era questo disturbo poco fa, ma fa niente, sono cose normali che non sono trattate nella 27, capito, e dobbiamo sopportarci queste cose qua, no, mi ha fatto piacere Roberto. Ti super saluto, 73351, buon 144, buon corsio, ci sentiamo alle prossime, ogni tanto quando ti sento già mi affaccio per salutarti, sì, e poi riferisco a Babbo, sì, di saluti di questo amico suo che conosce, io non mi ricordo, però poi glielo riferisco, capito, e niente, salutami intanto a Farviero, se ti capita di sentirlo, perché lui sono da molto, che non lo contatto più di altro, capito, che è una frequenza, ma non mancherà occasione di contattare a lui di nuovo. Ok, la Roberti, stiamo bene, sono 144, 51 e alle 3.000, da anch'io adesso, vedo se c'è qualcuno da che si riesce a sentirmi, vedo se mi sono qui a 25.000, quindi perché ho fatto 10.000, ok Roberti, saluto e alle 3.000, ciao ciao. Ok, allora ti mando la PSL, ciao di nuovo, buon ritiro definitivo, ciao ciao. Caffa, saluti, gli amici che tiri, Lima 1, ci sei? Sì, Caffa, non so se c'è anche Giovanni con te, cosa te la senti di fare così diretta, perché cosa, frequenta di chiamata internazionale, dammi conferma.